Venezia 75. La mostra del cinema di Venezia, raccontata da Piero Di Domenico. Comincerà domani la 75esima mostra del cinema di Venezia e per seguirla passo dopo passo noi siamo in collegamento con il nostro esperto di cinema Piero Di Domenico. Ciao Piero. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sì, siamo alla vigilia della nuova edizione della mostra del cinema di Venezia, una edizione particolarmente attesa per tanti motivi che adesso magari proverò un po' a elencare, un po' a descrivere. Domani l'inaugurazione ufficiale non ci sarà come invece era tradizione il Presidente della Repubblica Mattarella, in segno di rispetto e di lutto per dopo la tragedia di Genova. In compenso, a livello politico invece giovedì è annunciato l'arrivo del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, questo soprattutto per diciamo testare un po' l'apparato di controllo che è stato annunciato proprio ieri dal prefetto di Venezia, avverrà un dispiegamento un po' come numeri simile a quello del G20 di Taormina, ma non è di questo che si occuperà la mostra di Venezia, che anzi da un punto di vista tematico della scelta dei film quest'anno si presenta particolarmente ricca e concentrata su temi di grande attualità nelle sue sezioni: il concorso, fuori concorso, la sezione Orizzonti e la sezione Sconfini, che è il nuovo nome con cui è stata ribattezzata la precedente la sezione che era nota invece come il cinema del giardino. Dicevo che i motivi di attesa sono molti, perché è una mostra che si presenta al via davvero con una serie di nomi, soprattutto quelli in concorso, ma non solo, di tutto rispetto. Magari si potrebbe evidenziare come non ci sono nomi particolarmente nuovi nel concorso che per il Leone d'Oro, che ha puntato invece assolutamente su registi noti e affermati, però devo dire che è una vera e propria parata di stelle da un punto di vista registico quello che Venezia presenta quest'anno, sin dall'apertura domani sera, perché il film a cui toccherà aprire la mostra è un film di Damien Chazelle, regista di La La Land, che proprio da Venezia 2 anni fa aveva preso il via per una corsa che poi l'avrebbe portato all'Oscar come miglior regia, e quest'anno appunto Chazelle ritorna con nuovo film, un biopic, una biografia, First Man, dedicata a Neil Armstrong, l'astronauta appunto che fu il primo uomo a mettere piede sulla Luna, con Ryan Gosling, che ovviamente è a Venezia, sarà presente con la dimensione familiare affidata alla moglie, interpretata da Claire Foy, che ricordiamo appunto interpreta della serie televisiva The Crown. Perché è importante questa apertura con First Man? Perché negli ultimi anni i film che hanno inaugurato Venezia sono arrivati come dritti agli Oscar. Venezia da questo punto di vista si è ritagliato un ruolo estremamente chiave, nevralgico, un rapporto privilegiato con il grande cinema americano, quindi con le produzioni hollywoodiane, che naturalmente è nato da una scelta strategica oltreoceano, ma che ha avuto dei riverberi anche qui in Europa. d'Europa. Le grandi major americane hanno scelto di posticipare i titoli più importanti, di farli uscire non più in estate ma verso la fine dell'anno, questo per essere più a ridosso degli Oscar che ci sono naturalmente a inizio ci saranno anche quest'anno inizio del 2019, e quindi questo ha reso più appetibile Venezia appunto fine agosto, settembre rispetto ad esempio a Cannes che è a maggio e quindi in una fase molto molto anticipata rispetto a quelle che sono le nuove esigenze distributive. Questo ha favorito negli ultimi anni sicuramente un flusso di titoli importanti, e ovviamente con tutto quello che comporta. Il cinema americano ovviamente continua ad essere un grande motore da un punto di vista anche di star system, di attori, di promozione, e quindi questo porta naturalmente a Venezia un indotto e un beneficio evidente rispetto al Festival di Cannes. You say you want a revolution, well, no, we all want to change the world. You tell me that it's evolution, well, you know, we all want to change the world. When you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Yeah, you know it's gonna be. Naturalmente non c'è solo First Man, non c'è solo il cinema americano, perché come dicevo appunto il programma è davvero ricchissimo, con anche molti registi europei. Io mi limito a fare qualche nome tra i presenti. Naturalmente gli americani ci sono, e come ci sono anche ad esempio i fratelli Coen, attesissimi con il loro nuovo The Ballad of Buster Scruggs, ci sono anche il francese Jacques Audiard con The Sister Brother, che è un film, una sorta di western ambientato in Oregon, quindi una trasferta americana per Odiar, con Jack Gyllenhaal, Joaquin Phoenix, John C. Reilly, poi Olivier Assayas per la Gran Bretagna, Paul Greengrass, Mike League, il greco Yorgos Lanthimos, il tedesco Florian Henkel von Donnersmarck, quello delle vite degli altri, il giapponese Shinya Tsukamoto, l'ungherese Laszlo Nemes, già premiato a Cannes con Il figlio di Saul, e ancora l'argentino Gonzalo Tobal. Casomai, più che la geografia, si potrebbe notare che dei film in concorso invece sono quasi tutti, con un'unica eccezione, registi uomini. L'unica regista donna è l'australiana Jennifer Kent con Nightingale, e questo naturalmente è stato evidenziato soprattutto dalla stampa internazionale, dalla stampa americana. Per quanto riguarda i titoli italiani in competizione, ricordo, la giuria è presieduta da Guillermo del Toro, che aveva vinto l'anno scorso sia il Leone d'Oro e anche l'Oscar per questo tandem, questo ticket che è sempre più frequente, con ci saranno tre italiani: Mario Martone con Capri Revolution, Luca Guadagnino con il remake di Suspiria di Dario Argento, Roberto Minervini, italiano trapiantato in America ormai da un po' di anni, con What You Gonna Do When the World's on Fire. Quindi anche come dire, rispetto agli ultimi anni, mi sembra un drappello di film italiani più consolidato, un po' meno sperimentale, un po' meno avventato per altri versi. Ma naturalmente poi ci sono anche le altre sezioni, la sezione Orizzonte, ricordiamo, c'è molta attesa ad esempio per il film di Alessio Cremonini, Sulla mia pelle, che è un film dedicato alla vicenda tragica di Stefano Cucchi, con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca. C'è La profezia dell'armadillo di Emanuele Scaringi, tratto dalle graphic novel di Zero Calcare, e poi naturalmente anche il Fuori concorso, con anche qui film italiani, ad esempio Una storia senza nome di Roberto Andolle, Estivan di Valeria Bruni Tedeschi, oltre ad altri registi di grande fama come Jean Guimou con un nuovo Xupian, film in costume appunto pieno di mirabolanti coreografie, o anche naturalmente altri autori come Amos Gitai, Errol Morris, Tsai Ming Liang con un film che è al confine tra cinema e videoarte. Quindi insomma davvero un programma ricchissimo, fra l'altro anche con la solita attenzione ai grandi classici restaurati, con una sezione ad hoc, e tra questi c'è un evento molto atteso come la presentazione, la riproposizione di un grande film, uno delle grandi incompiute di Orson Welles, The Other Side of the Wind, completato e restaurato, e anche con un documentario che ne racconta in qualche modo la storia travagliatissima. Naturalmente poi rispetto anche a Cannes, Venezia si presenta molto più aperta anche da un punto di vista dell'industria cinematografica, e non solo, perché Cannes ha chiuso le porte a Netflix, ad Amazon, che sono oggi comunque importanti motori, importanti produttori cinematografici, e invece Venezia questa scelta così drastica, radicale, non l'ha fatta, tant'è che ci sono produzioni Netflix come ad esempio il film dei Coen, che è appunto uno dei più attesi, così come le serie televisive. Ci saranno i primi due episodi dell'Amica geniale di Saverio Costanzo, tratti dalla saga di Elena Ferrante. Quindi Venezia mi sembra che anche da un punto di vista proprio delle scelte e dell'apertura si presenti con un ventaglio davvero ricchissimo, forse anche più di Cannes, e fra l'altro anche con alcune sezioni di cui magari parleremo nei prossimi giorni. Venezia 75, la mostra del cinema di Venezia raccontata da Piero Di Domenico.